Da venerdì 24 a domenica 26 di marzo si terrà un workshop performativo in collaborazione tra Atelier C e DAS dal titolo Starring Backwards. Io sono qui per parlarne con Filippo Michelangelo Ceredi. Ciao Filippo, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, grazie mille per ospitarmi. Allora Filippo, ti va di raccontarci che cos'è questo progetto, questo workshop performativo, ecco, che hai curato proprio tu? L'edizione bolognese di questo workshop, che in realtà sto facendo in collaborazione con altre due artiste, uno di Venezia, Est Coulon, e una di Bologna, Eugenia Del Bue, è appunto solo un'edizione di un progetto che si svolge in più città ed è quindi site specific. In ogni città proponiamo, diciamo, di attraversare una serie di pratiche, di esperimenti che portano un gruppo di persone a camminare all'indietro in spazi pubblici. Possono essere sia parchi, ma soprattutto piazze, piazze proprio molto in vista, ecco, della città, come per esempio potrebbe essere Piazza Maggiore a Bologna o Piazza del Duomo a Milano, dove è nato il progetto. Appunto, il gruppo di persone viene, diciamo, formato con una call a cui rispondono persone di vario tipo, quindi principalmente non professionisti, a volte anche professionisti della danza o della performance, ma principalmente non professionisti che magari si occupano di tutt'altro, dal educatori, educatrici, artisti visivi, psicologi, architetti, insomma una quantità di profili molto diversi. Come dicevi anche tu, insomma, come ci stai raccontando, è un progetto partecipativo, no? E site specific. Quindi ti chiedo, insomma, come si può appunto partecipare per chi ne avesse voglia e dove avverrà qui nella nostra città Bologna. Non so se ce lo puoi già dire, ecco. Allora, sul dove esattamente avverranno le cose non do molte anticipazioni, se non certo. Quelle che si possono desumere un po' dalla call, perché appunto uno dei fattori del percorso è proprio non svelare ai partecipanti quali punti precisi della città saranno abitati da queste pratiche. Però è chiaro che nei tre giorni di workshop, venerdì, sabato e domenica, quindi 24, 25 e 26 di marzo, si partirà nel primo pomeriggio alle 13.30 da Atelier C, dove faremo le prime pratiche fisiche in questa splendida sala del C in via San Vitale, e da lì ci sposteremo in spazi esterni. La giornata di workshop si conclude con delle rielaborazioni visive, quindi diciamo mettendo in relazione anche i materiali fotografici che i partecipanti realizzano durante il workshop con le pratiche appunto somatiche, corporee, invece nello spazio di DAS. Questo avviene la sera tra le 7, tra le 19 e le 21 principalmente. Ecco. E invece per partecipare ti va, Filippo, di darci magari qualche contatto appunto su come raggiungere te, Atelier C, DAS, insomma, per appunto partecipare al workshop? Senz'altro, certo. Dunque, abbiamo a disposizione una casella email che è staringbackwards@yahoo.it. Quindi staring come staring backward. Questo è anche presente, diciamo i riferimenti sono anche presenti su Facebook e su Instagram, sempre sotto staring backward, appunto dove si possono trovare un po' tutte le informazioni dettagliate. Il costo del laboratorio è di 60 euro, questo ci permette di svilupparlo per ora in maniera indipendente, appunto con la collaborazione di spazi che ci ospitano come Atelier C e DAS. Naturalmente è anche possibile, come dire, non partecipare al workshop, ma vedere gli effetti, ecco, del workshop nello spazio, che saranno appunto, diciamo, ci sarà una restituzione pubblica di questi attraversamenti, di queste pratiche, domenica 26. dalle 17 alle 18:30 in Piazza Maggiore e dalle 21 in poi ad Ast. Quindi in Piazza Maggiore ovviamente si vedranno questo gruppo di persone che fa delle migrazioni, muovendosi all'indietro e creando delle tensioni specifiche nello spazio della piazza. E invece ad Ast, nella parte serale, ci saranno anche proprio come dire, delle possibilità di visualizzare quello che è la parte più fotografica del lavoro, perché appunto si va anche a costruire un archivio in cui i corpi dei partecipanti si relazionano all'ambiente urbano. Grazie Filippo, io appunto ti ringrazio per averci raccontato questo workshop. Ricordo ancora una volta da venerdì 24 a domenica 26 marzo e insomma vi consiglio di andare sulle pagine di Ateliersi ed AS per poi tutti i riferimenti più specifici. Grazie ancora Filippo per avercene parlato. Grazie a voi, è stato un piacere.